Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Agguato al presidente del parco dei Nebrodi in prima linea contro la mafia, scontro a fuoco con gli agenti della scorta, salvo grazie all'auto blindata. L'Europa si conferma in deflazione, meno 0,2% dopo il via libera alla flessibilità per l'Italia all'ombra del problema greco. Oggi riunione dell'Ecofin. Ritrovata e riportata in Italia la lettera di Colombo nella quale annuncia la scoperta dell'America, era nella biblioteca del Congresso americano. Il concorso per le guardie carcerarie è forse infiltrato dalla camorra, si va verso l'annullamento, oltre 80 candidati con le risposte già in tasca. Il dilemma dell'accoglienza, 138 profughi assegnati ad un'ex struttura alberghiera a Treviso, la rabbia del sindaco non informato dal prefetto. Manca un mese all'apertura delle passerelle galleggianti dell'artista Cristo sul lago d'Iseo, attese oltre 700.000 persone e una gestione che non si prospetta facile. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e seguite il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque l'attentato, il tentativo di agguato contro il presidente del parco dei Nebrodi. È scampato ad un agguato mafioso in piena regola ed è salvo grazie all'auto blindata e alla sua scorta, Giuseppe Antoci. Nella notte il presidente del parco dei Nebrodi stava rientrando a casa quando sulla strada fra Cesarò e San Fratello, in provincia di Messina, la sua macchina è stata costretta a fermarsi a causa di alcune grosse pietre che erano state messe al centro della carreggiata. A quel punto un commando composto da almeno due persone ha iniziato a sparare contro la vettura con dei fucili a pallettone. Un agente della scorta e l'equipaggio di una seconda volante che seguiva a distanza hanno però risposto al fuoco, ferendo probabilmente uno dei malviventi che sono poi riusciti a fuggire. Il presidente del parco dei Nebrodi era sottoposto a tutela già da tempo per una serie di minacce subite a causa del suo impegno contro la mafia, soprattutto per la concessione delle zone di pascolo. Immediata la solidarietà delle associazioni antimafia e di tutte le istituzioni nei confronti di Antoci, le cui prime dichiarazioni dopo l'agguato sono state quelle con le quali ha voluto ringraziare i poliziotti che gli hanno salvato la vita. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti torneremo a parlare di questa vicenda cercando di raccontarvi un po' meglio questo personaggio e che cosa ha fatto appunto per il parco e per la Sicilia. L'economia, iniziando dall'Europa, oggi è stato confermato il dato che riguarda l'inflazione europea, un dato che ci parla appunto di deflazione, è un meno 0,2% su anno in aprile ed è la giornata quella di oggi nella quale arriveranno i giudizi ufficiali dopo le tante indiscrezioni che sono circolate nelle ore scorse sulle manovre economiche dei vari paesi europei. Come sapete, l'Italia sarà sostanzialmente promossa e avrà più margini per la flessibilità in cambio di maggiori impegni sul 2017. Si riunisce anche l'Ecofin, che dovrà fare anche il punto presumibilmente sulla Grecia. Nel frattempo parla anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che dice in un'intervista ad Handelsblatt che è evidente che non possono esserci tassi negativi in eterno. Visco aggiunge che nell'ambito della BCE abbiamo fatto quello che andava fatto e il programma ha funzionato. E sempre per quanto riguarda l'economia, ci sono molti movimenti in queste ore nel mondo dell'editoria. Questo è il mio ultimo articolo per Libero. L'editore ha deciso e io mi faccio da parte. Così Maurizio Belpietro, dopo 7 anni, lascia la guida del giornale degli Angelucci. Al suo posto torna il fondatore Vittorio Feltri. Di un cambio della guardia si parla anche per l'Unità, il cui 20% è in mano al PD, Riccardo Luna, al posto di Erasmo D'Angelis. Chiarezza e niente ricatti, chiede il CDR, dopo le voci su un taglio dei giornalisti. Novità nell'azionariato, invece, per il Fatto Quotidiano, la Zero Studios di Michele Santoro, acquisito infatti il 7% della società editoriale. E poi c'è la grande partita, quella sul gruppo che edita Corriere e Gazzetta. Sul tavolo ci sono due offerte. La prima, quella di Urbano Cairo, propone uno scambio titoli con Cairo Communication per un valore delle azioni RCS di 0,52 euro. Poi c'è la contro OPA, al fianco del finanziere Andrea Bonomi i soci storici di RCS, Mediobanca, Pirelli, Unipol, Sai, Della Valle, che offrono 0,7 euro in contanti. La proposta arriverà domani in CDA, mentre entro il 7 giugno è previsto il rifinanziamento da parte delle banche fino a 352 milioni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre per l'economia ci sono i dati diffusi pochi istanti fa dall'INPS che riguardano i contratti nei primi tre mesi del 2016. Sono stati stipulati 428.000 contratti a tempo indeterminato. Sono comprese in questo dato anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, mentre le cessazioni sono state 377.000. Il saldo è positivo per 51.000 unità, ma nel trimestre il dato è peggiore del 77% rispetto ai primi tre mesi del 2015, in forza anche della riduzione degli incentivi sui contratti stabili. E per chiudere la pagina economica, il presidente di Mitsubishi, anche questa è notizia di poco fa, Tetsuro Aikawa, lascerà l'incarico sulla scia dello scandalo delle emissioni truccate, mentre la casa automobilistica giapponese cercherà di risollevarsi con l'aiuto di Nissan. Il comunicato dell'azienda, appunto, come si diceva, è di poco fa. Passiamo a parlare di migranti, sui quali serve un approccio globale e durevole, lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Forum Italia-Africa. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Sono oggi necessari sforzi ulteriori e decisivi per eliminare alla base le cause delle migrazioni di necessità. Come è noto, l'Italia ha sostenuto costantemente l'esigenza di strategie lontane dalla logica semplicistica che vorrebbe rispondere al fenomeno attraverso l'erezione di muri e barriere. Primo dovere è quello di salvare vite umane e di soccorrere chi si trova in condizioni di difficoltà e di sofferenza. E a Lampedusa c'è stato un incendio al centro di primo soccorso e accoglienza per i migranti. Nessun ferito, ma ingenti danni al padiglione che ospita gli uomini. Si sospetta di quattro tunisini che temevano di essere rimpatriati. Un episodio da distinguere dalle proteste dei giorni scorsi, dice da Lampedusa Francesco Piobicchi, collaboratore del progetto Mediterranean Hope. L'intervista è di Laura Bettini. Le manifestazioni che abbiamo visto e osservato in questi giorni a Lampedusa avevano un carattere estremamente pacifico. I ragazzi hanno deciso di non rientrare al centro, di iniziare uno sciopero della fame che è durato 5 giorni e poi di continuare la protesta che sta andando avanti fino ad oggi. Erano una sessantina e adesso sono rimasti una decina. Loro punciano tre cose: le condizioni del centro, il fatto di non voler rilasciare le impronte, e dicono anche di aver subito, denunciano di aver subito violenza rispetto a questo. È stato il loro... Cioè, per rilasciare le impronte? Le impronte, sì. Mm. Queste forme di protesta sono forme estremamente radicali che non abbiamo visto, ad esempio, in questi due ultimi anni, dove ad esempio hanno protestato molto spesso gli eritrei per non poter lasciare le impronte. Ora qui però i sospetti per questo incendio cadono su un gruppo di tunisini. La loro situazione è in qualche modo diversa da quella degli altri? Sì, la condizione dei tunisini è diversa perché, come è successo la scorsa settimana, loro vengono rimpatriati in maniera abbastanza veloce. Quindi probabilmente a seguito di una comunicazione di questo tipo loro potrebbero aver utilizzato questa forma di protesta radicale. Il processo per l'assassino di Yara Gambirasio. Oggi dovrebbe arrivare la richiesta dei PM. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, Simone, a questo punto al PM manca solo, appunto, di esplicitare la pena. A breve, infatti, Letizia Ruggeri, dopo aver ripercorso come e dove Yara Gambirasio fu lasciata morire, terminerà la sua requisitoria con la richiesta di condanna per l'unico imputato, Massimo Bozzetti. E le voci del Palazzo di Giustizia di Bergamo, dopo 40 udienze, sussurrano che sarà il massimo della pena. È stato lui, per l'accusa, il muratore di Mapello, incensurato e padre di tre figli, ad uccidere la 13enne di Brembate, colpendola ripetutamente per poi abbandonarla in un campo agonizzante. Il corpo della piccola ginnasta, scomparsa il 26 novembre 2010, fu ritrovato 3 mesi dopo a Chignolo d'Isola, e a partire dall'autopsia e dalle tracce del DNA della vittima, miste a quelle dell'imputato, si è risaliti a Bossetti, che non sa spiegare perché il suo DNA si trovi sugli indumenti della bimba, marca il PM, che ricorda pure come il muratore non fosse al lavoro il giorno della scomparsa di Chiara e i suoi tentativi di fuga al momento dell'arresto. Ma quella stessa prova regina, il DNA, è stata fortemente contestata dalla difesa, che dopo le parti civili, venerdì prossimo, il 27, proverà a smontare le accuse. Le accuse prima di sentire, intorno al 10 giugno, la sentenza. E a quel punto deciderò una volta per tutte della mia vita. Quello che deciderò è una mia decisione, scrive dal carcere lo stesso Bossetti alla mamma e alla sorella, sicuro di farla finita in carcere. Simone. E grazie a Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Passiamo a parlare, restiamo sulla cronaca, della camorra che avrebbe tentato di infiltrarsi nel concorso per le guardie carcerarie. 88 candidati campani sorpresi con le risposte in tasca. È accaduto a Roma, al concorso per guardie carcerarie, che si è svolto dal 20 al 22 aprile. L'ipotesi della procura è che la camorra puntasse ad inserire uomini dell'organizzazione nelle carceri. A suscitare i sospetti della magistratura sono state le dichiarazioni di alcuni dei concorrenti finiti sotto accusa e le cifre troppo elevate pagate per ottenere in anticipo le soluzioni dei test, che in alcuni casi raggiungerebbero addirittura i 25.000 euro. Il fascicolo è finito così alla procura antimafia di Roma. Intanto il ministro della giustizia Andrea Orlando ha chiesto una relazione urgente a Santi Consolo, responsabile del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Spetterà all'Avvocatura dello Stato pronunciarsi e valutare se sia possibile annullare la prova. Le indagini puntano anche ad accertare eventuali complicità all'interno del Dipartimento. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Papa ha denunciato in udienza generale la contraddizione di un mondo nel quale immense ricchezze e risorse sono nelle mani di pochi. Sentiamo le sue parole. La contraddizione di un mondo in cui immense ricchezze e risorse sono nelle mani di pochi. Ignorare il povero e disprezzare Dio. E questo dobbiamo impararlo bene. Ignorare il povero e disprezzare Dio. E siamo alla pagina politica di oggi. Beh, i temi sono sempre quelli, tra referendum e amministrative. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, i temi sono sempre quelli. Ricordiamo che ieri sera il premier Matteo Renzi ha richiamato il PD all'unità in vista proprio del referendum costituzionale d'autunno. Facciamo 6 mesi a testa alta, ha detto ai parlamentari Dem, e sull'Italicum al Senato ha detto di voler mantenere i patti fatti con la minoranza. Questa mattina quindi aperture da parte della minoranza interna, con Vannino Chiti che plaude all'impegno di Renzi di approvare la legge elettorale per il nuovo Senato in questa legislatura. È quanto aveva chiesto, dice Chiti, le nebbie della confusione sono state spazzate via. Meno invece l'accordo sulle amministrative, dove Gianni Cuperlo chiede a Renzi una maggiore mobilitazione perché giugno viene prima di ottobre. Sul fronte poi delle amministrative bisogna ricordare sempre che a Milano è stato respinto dal TAR il ricorso del Movimento 5 Stelle contro la candidabilità di Giuseppe Sala del PD, mentre a Roma infuria la battaglia elettorale. Virginia Raggi attacca Roberto Giachetti del PD perché dice che fa campagna elettorale appoggiandosi al premier, mentre Alfio Marchini, lo ricordiamo, l'indipendente però appoggiato da Forza Italia, contrattacca la candidata 5 Stelle accusandola di essere un usato insicuro. Poi sul fronte invece della destra, Matteo Salvini questa mattina ha visitato un campo rom e ha detto che non devono più esistere. A te, Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Passiamo a parlare del ritrovamento in Italia di una lettera di Cristoforo Colombo. Era stata rubata a Firenze e si trovava ora a Washington negli Stati Uniti. La lettera in cui Cristoforo Colombo annunciava la scoperta dell'America è stata recuperata dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Trafugata dalla Biblioteca Riccardiana di Firenze, si trovava nella Biblioteca del Congresso di Washington, che l'aveva ricevuta attraverso una donazione. Il prezioso documento, stampato nel 1493, che vale intorno a $1 milione, era stato venduto all'asta negli USA nel 1992 ad una cifra sotto stimata di $400.000 e acquistato da un privato che a sua volta l'aveva poi donata. Il ritrovamento di questa lettera di Colombo è frutto dell'efficiente attività investigativa di Italia e Stati Uniti nella lotta al traffico illecito di beni culturali. Un fatto simbolico che segna l'amicizia e la totale collaborazione tra i nostri due paesi, sostengono sia il ministro Franceschini che il generale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Mossa e l'ambasciatore statunitense in Italia Phillips, tutti e tre presenti alla conferenza stampa a Roma sui dettagli del ritrovamento. Il comandante del reparto operativo dei carabinieri del nucleo TPC, Antonio Coppola. Le nostre attività sono state condotte col coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, ma in stretta collaborazione con l'ICE, Immigration Custom Enforcement, è un'agenzia federale americana. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo per sentire cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione inizieremo come sempre il nostro giro per l'Italia. Andremo innanzitutto a Treviso, dove c'è, come in tante altre città d'Italia, il problema dell'accoglienza di migranti e profughi, dove i prefetti decidono, a volte senza avvisare i sindaci, che si ritrovano delle persone sul loro territorio e non sanno bene come gestirla. E poi torneremo ad occuparci della nostra notizia di apertura, ossia l'agguato contro il presidente del parco dei Nebro, per farci raccontare da Roberto Galullo del Sole 24 Ore, che ha seguito bene la vicenda, che cosa ha fatto quest'uomo contro la mafia per essere così attaccato. E poi più avanti parleremo invece dell'installazione dell'artista Cristo ad Iseo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'agguato al presidente del parco dei Nebrodi, che è in prima linea contro la mafia, ci torneremo tra poco. Abbiamo parlato dell'Europa che si conferma in deflazione, della lettera di Cristoforo Colombo ritrovata, riportata in Italia, era nella biblioteca del Congresso americano. Abbiamo parlato del concorso per le guardie carcerarie, forse infiltrato dalla Camorra. Adesso torniamo ad occuparci di migranti e di accoglienza, di problemi del territorio. Iniziamo da Treviso il nostro giro per l'Italia, consueto giro per l'Italia. Andiamo in un ex hotel, l'ex hotel Carletto, chiuso da 4 anni dopo il fallimento e che ospiterà nei prossimi giorni, su indicazione della prefettura e su accettazione del proprietario della struttura, evidentemente 138 nuovi profughi. Giovanni Manildo è il sindaco di Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è anche del Partito Democratico. Allora Manildo, questo è un tema che noi abbiamo affrontato altre volte all'interno di questa trasmissione, perché succede questo: la prefettura decide di collocare un certo numero di profughi o di migranti in determinate strutture o richiedenti asilo, quel che vogliamo, su indicazione del Viminale, come è normale che sia, e però in sostanza voi amministratori locali finite per non saperne sostanzialmente nulla. Sì, diciamo la situazione e qui dell'hotel Carletto è leggermente diversa. Non siamo in presenza già di un'assegnazione, cioè non c'è già la certezza che 138 persone vengano posizionate all'hotel Carletto, però ieri c'è stata l'apertura delle buste, dove alcune società, alcune cooperative, alcune associazioni di volontariato che fanno accoglienza nel territorio, tra queste c'è la proposta di questa cooperativa che ha indicato come luogo per poter accogliere 138 persone l'hotel Carletto. Quello che a me ha colpito è che di fronte a numeri così alti e così impattanti in un territorio che sui 2000 accolti in provincia di Treviso, ricordo che il comune di Treviso insieme al comune di Casera e al comune di Vittorio ne accoglie già 1000, sì. Mi ha molto colpito il fatto che si continui a insistere su gli stessi luoghi e soprattutto senza interfacciarsi con le amministrazioni locali, perché è fondamentale contemperare. Ma come mai avviene questo, Manildo? Lo chiedo proprio all'amministratore locale, oltre che al sindaco di Treviso, no? A una persona che da 2 anni è sindaco in carica e che questi problemi ormai li conosce, perché non è da oggi che c'è un problema con l'accoglienza dei profughi e migranti, no? Ma come mai le prefetture non si interfacciano con voi? Perché a me suona veramente strano, no? Nel momento nel quale c'è una crisi, un problema in città, mediamente il prefetto si interfaccia col sindaco. Ma come mai questo non avviene? Ma io devo premettere che i rapporti con il prefetto di Treviso sono buoni sul tema. Io appena ho conosciuto dall'apertura delle buste questa proposta, ho chiamato la prefettura e mi è stato detto che neppure loro erano a conoscenza di questa offerta di accoglienza per 138 persone all'hotel Carletto. Quindi nel caso specifico, su mia richiesta, perché è veramente impattante, è sbagliato fare accoglienza lì, mi è stato detto che non sapevano nulla e condividevano in generale le mie preoccupazioni su quel luogo. Poi in generale, perché penso che il tema sia un tema generale, è necessario che ci sia un coordinamento fortissimo tra prefetture e sindaci. Devo dire che anche noi sindaci ogni tanto abbiamo atteggiamenti pregiudiziali di contrarietà e questo su questo dobbiamo cercare ognuno di lavorare un po', insomma. Sì, ecco, io penso che di fronte a un tema così sia importante ognuno fare la propria parte per risolvere il problema e provincia di Treviso ha 90 comuni, se sono soltanto 4 i comuni che fanno accoglienza probabilmente non è un problema soltanto di prefetture ma anche un problema di amministratori locali che dovrebbero pensare da un punto di vista amministrativo e non pregiudiziale politico, ma dovrebbero cercare di dare delle soluzioni a un territorio e poi insieme magari se abbiamo delle idee diverse su come va gestita a livello internazionale l'accoglienza, fare delle proposte, ma intanto l'emergenza deve essere gestita in collaborazione. L'ultima domanda che le voglio fare, sindaco, a lei che conosce il territorio, insomma, questo è un ex albergo, da quel che ho capito, abbandonato da 4 anni, ma è una struttura adeguata all'accoglienza? Ma è una struttura secondo me inadeguata sotto vari profili, innanzitutto la collocazione dove è messa appunto in mezzo ad altre case, cioè proprio logistica, poi come struttura interna non conosco ma penso che sia abbastanza, insomma, da 4 anni messa malino, insomma. Ecco, io comunque penso che sia per moltissime considerazioni totalmente inadeguata per l'accoglienza, quindi non è un no pregiudiziale ma proprio in caso concreto è assolutamente una cosa sbagliata e mi ha molto colpito che una proposta di accoglienza con numeri così impattati venga fatta a fari spenti, cioè senza prima parlare con l'amministrazione sull'impatto che per gli altri cittadini una struttura di questo genere può portare. Penso che questo sia molto sbagliato e abbastanza irresponsabile da parte di chi ha proposto l'accoglienza. La ringrazio, grazie Giovanni Manildo, sindaco di Treviso. Roberto Galullo del Sole 24 Ore, ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti. Per parlare dell'agguato di questa notte al presidente del Parco dei Nebrodi, abbiamo detto in prima linea contro la mafia, la storia l'abbiamo raccontata nella prima parte di Effetto Giorno, un vero e proprio scontro a fuoco con gli agenti della scorta, lui si è salvato, diciamo così, grazie all'auto blindata, ma perché è un simbolo il presidente del Parco dei Nebrodi, Roberto? Ma è un simbolo perché da quando è diventato presidente nel 2013, dopo un anno di commissariamento che aveva svelato una situazione davvero drammatica dal punto di vista economico-finanziario, questo presidente si è dato da fare con degli atti concreti, fianco a fianco con le istituzioni, a cominciare con la prefettura o dalla prefettura di Messina, per porre degli ostacoli seri, serissimi agli affari miliardari delle cosche che su quel luogo insistono. Tra l'altro togliendo vero e proprio terreno alla mafia, no? In sì, sostanza. Questo è il punto. Dicendolo con uno slogan possiamo dire che ha rotto le uova nel paniere delle cosiddette agromafie. Cioè che cosa succede? Succede che in questo parco, che ricordiamolo è il parco regionale più ampio della Sicilia, ci sono dei fortissimi interessi mafiosi. Ci sono degli interessi mafiosi nei pascoli, ci sono degli interessi mafiosi nel legname, ma questo è l'aspetto, diciamo così, più ininfluente. Gli interessi enormi sono nei finanziamenti europei che arrivano a botte di decine, centinaia di milioni di euro, che spesso vengono intercettati da aziende che non ne avrebbero affatto diritto. Il protocollo di legalità che è stato firmato il 18 marzo 2015 proprio da Antoci con il prefetto di Messina Stefano Trotta punta proprio a questo, cioè a monitorare costantemente tutti i soldi che finiscono presso queste aziende. Alcune ne avranno sicuramente bisogno, ma molte altre no. Allora Roberto, io ti ringrazio intanto per questa spiegazione. Per darvi un'idea, nel 2015, quindi diciamo il primo anno di gestione, anche se non completa, da parte appunto di questa nuova gestione del Parco dei Nebrodi, le presenze nelle strutture turistiche sono aumentate del 35% con punte del 70% in estate. È per questo che alla luce di questo attentato bisogna stare vicini, dimostrare vicinanza a questa persona. Noi adesso ci fermiamo. Abbiamo come sempre gli aggiornamenti di borsa, poi torneremo in Veneto perché ieri è stata approvata una legge molto contrastata per l'abbattimento delle nutrie, lo consente anche ai volontari. Le nutrie, lo sapete, creano un problema grosso, soprattutto ai fiumi, in realtà un vero e proprio rischio idrogeologico. Ebbene, c'è grande polemica soprattutto tra la maggioranza di centrodestra e la minoranza di centrosinistra che si oppone a questa legge. E poi ci occuperemo del lago di Iseo, dove arriva questa installazione dell'artista Cristo, straordinaria. Sono delle passerelle sull'acqua, solamente che dura un paio di settimane soltanto, e in quella zona si rischia che insistano tra le 700.000 e il milione di persone solo in quelle due settimane. Potete immaginare come ci si sta preparando in quelle zone. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'agguato al presidente del Parco dei Nebrodi, in prima linea contro la mafia, scontro a fuoco con gli agenti della scorta e salvo grazie all'auto blindata. L'Europa si conferma in deflazione, meno 0,2% in aprile. Intanto oggi dovrebbero arrivare le pagelle europee sulle manovre economiche dei vari paesi, anche con il via libera alla flessibilità per l'Italia. È stata ritrovata e riportata in Italia la lettera di Colombo nella quale annuncia la scoperta dell'America. Era nella biblioteca del Congresso americano. Il concorso per le guardie carcerarie, forse infiltrato dalla camorra, si va verso l'annullamento. Oltre 80 candidati con le risposte già in tasca. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Proseguiamo il nostro giro per l'Italia e torniamo in Veneto, questa volta con l'assessore all'agricoltura, caccia e pesca della regione, Giuseppe Pan. Buongiorno, benvenuto Pan. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Allora, ieri sera avete approvato una legge molto contestata in una serie di regioni d'Italia, cioè questo problema delle nutrie. Perché è un problema? Quelle che sono dette i castori, appunto questi piccoli roditori che fanno delle buche diciamo sugli argini dei fiumi e creano dei problemi a livello idrogeologico. Certo, non sono l'unica causa del dissesto idrogeologico, ma qualche problema lo creano. E ieri voi avete, o meglio il Consiglio regionale, ha approvato una legge che parla dell'abbattimento delle nutrie. Qualcuno l'ha definito lo sterminio delle nutrie, perché vengono autorizzati anche i volontari a sparare. Ce lo spiega, assessore? Certo, non è stata molto, è stata una grande discussione, ma è stata approvata con 37 voti favorevoli e due solo i contrari, quindi del contrasto anche politico c'è stato poco. Diciamo che questo animale già da tempo in Veneto è presente in qualche milione di esemplari, sta provocando seri problemi soprattutto per quanto riguarda noi in Veneto, come lei saprà. C'è una stima, mi scusi Pan, c'è una stima approssimativa di quante sono le nutrie? Noi abbiamo stimato una presenza circa dai 3 ai 4 milioni di questi animali. 4 milioni. E quindi sta diventando un'emergenza veramente, oltre che dal punto di vista idrogeologico, quindi questi qui vivono in comunità come i castori, sono il castorino praticamente, quindi fa tane sotto gli argini, sotto i fiumi, sotto i canali. E noi già dall'alluvione del 2010 abbiamo avuto seri problemi. Io, tra l'altro, anche la delega ai consorzi di bonifica, anche i consorzi di bonifica sono in grave difficoltà naturalmente a gestire questa problematica legata proprio al degrado degli argini, quindi mettendo anche a dura prova le arginature, le difese anche. Se avviene un'alluvione qui nel Veneto, noi abbiamo spesso anche dei fortunali anche abbastanza importanti, sì. Anche la sicurezza dei cittadini, dei paesi, delle città. Lo sappiamo e ne abbiamo parlato ampiamente. Oltre e a ci questo spiega, ci sono anche parecchi danni legati al mondo agricolo. Certo. Sono erbivori e fanno danni vastissimi nelle valli e soprattutto nelle coltivazioni. E anche, dunque, di mais. Dunque anche all'agricoltura. Certo. A sparare potranno essere le autorità preposte, ma anche cittadini comuni dotati ovviamente di porto d'armi, no? Beh, è chiaro che adesso noi faremo un piano di contenimento come assessorato. Sì, a sparare potranno essere le guardie provinciali, quindi le guardie volontarie, quindi organizzati in gruppi, e i gruppi di cacciatori naturalmente iscritti alle associazioni venatorie e in possesso di regolare licenza, sia di giorno ma anche di notte. E anche nelle aree protette, ho capito bene? Anche nelle aree protette in cui praticamente esiste il problema. Poi nelle aree protette abbiamo anche, previo naturalmente sentendo anche i presidenti dei parchi, già lo facciamo col cinghiale, perché nei parchi naturali spesso si annidano, un altro problema, migliaia di cinghiali, quindi lo fanno già di per sé le guardie venatorie e anche le guardie provinciali, quindi non è certo una novità, ma sì, soprattutto il mondo dei cacciatori che ci danno una mano, sì, per eradicare questo animale. Ma assessore, nella formulazione iniziale della legge, se non ricordo male, c'era scritto che si potevano uccidere anche con balestre e giavellotti, poi è, sì, stata, sì, beh, è stato espunto. Qualcuno si era spinto anche un po' lì, però poi è stato emendato perché sembrava... Beh, insomma, andare in giro con un giavellotto, no, per uccidere le nutrie sembrava un po' troppo, no? In tutta, diciamo, che poi io avevo già fatto una disposizione di legge soprattutto per lo smaltimento delle carcasse, perché sapeva, una nutria arriva anche a 40 kg, quindi non è che è proprio un animalino così facile da smaltire, quindi c'è la possibilità del seppellimento, ma anche dello smaltimento attraverso i canali delle aziende, esempio, che fanno già l'eradicazione dei topi, eccetera, per i comuni o le aziende di raccolta e di incenerimento di rifiuti, quindi c'è tutta anche una predisposizione dello smaltimento per le carcasse. Abbiamo anche investito su questo 250.000 euro anche per i rimborsi. Vedremo. E l'acquisto delle trappole da parte dei comuni, quindi sì. Guarda, adesso il problema esiste, noi abbiamo fatto un passo in avanti e siamo sicuri che comunque guardi, io vado spesso nella commissione, sì, Stato-Regioni, e questo problema ce l'hanno tantissime regioni italiane, soprattutto quelle dove ci sono i grandi, sì, fiumi. E questo animale sta arrivando anche in montagna, cioè, no, certo, anche su per i torrenti, quindi è sta certo creando veramente un allarme anche sociale. Qualcuno dice perché non nasce catapulte, non scherziamo. Carlo Dalodi, la ringrazio. Giuseppe Panna, assessore agricoltura, caccia e pesca della Regione Veneto. Nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo un po' più a ovest, a cavallo tra le province di Brescia e Bergamo. Tra un mese esatto partirà un'installazione straordinaria, che sono delle passerelle galleggianti che saranno sul lago di Iseo, un lago appunto a cavallo tra le province di Brescia e Bergamo, il sesto lago d'Italia credo più o meno per dimensione, e dove ovviamente sono attese tantissime persone, secondo alcune stime 700.000, qualcuno parla di 1 milione, il tutto nell'arco di 2 settimane circa, in un territorio tutto sommato piuttosto piccolo. Il sindaco di Iseo, Riccardo Vincherutti, è con noi, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a te Simone. Allora, come vi state preparando? Beh, insomma, la preparazione... ci sono moltissimi problemi, c'è una cabina di regia che riunisce i comuni del lago sotto la direzione della prefettura, della questura di Brescia, sta lavorando allegramente. Certo, la grande incognita è il numero di visitatori che si avranno. Hai ricordato bene prima che ci si spinge addirittura a ipotizzare 1 milione di persone, il che per una ambiente piccolo come il nostro lago rischia di diventare davvero davvero molto. Quel che è certo è che questa installazione di Cristo, che si chiama The Floating Piers, i pontili moli galleggianti, rappresenta un po' una manna per il nostro lago. Dal punto di vista, per esempio, mediatico, è stato davvero una benedizione del cielo. Cioè anche solo la preparazione di tutto questo immagino stia attirando molti turisti, no? Ma insomma, New York Times, di mestiere facciamo i giornalisti, per cui sappiamo cosa significa. New York Times ha detto "It is the place to be", quest'anno, il luogo dove essere, nel mondo, dove stare. E Lonely Planet, le più grandi guide del mondo, ha messo il lago di Iseo fra i 10 luoghi da visitare assolutamente nel 2016. C'è un effetto trascinamento indotto incredibile, straordinario, di questo non possiamo naturalmente che essere grati a Cristo. Poi, ecco, posso chiedere come state organizzando le cose, cioè che cosa avete fatto per esempio nel comune di Iseo, poi magari nelle prossime settimane sentiremo anche qualcun altro degli altri comuni, insomma, però che cosa avete fatto ad Iseo per accogliere questa massa enorme di persone e tra l'altro molto concentrata nel tempo? Ma innanzitutto diciamo che l'opera riguarda direttamente due comuni che sono Montisola e Sulzano, che è un altro comune. La passerella, la cosiddetta passerella, unirà questi due comuni, Montisola è l'isola più grande dei laghi d'Europa, ci vivono 2.000 persone, un altro isolotto che si chiama San Paolo e Sulzano. Iseo sarà la porta d'accesso a quest'opera, per cui abbiamo allestito molti parcheggi, avremo all'incirca 5.000 posti auto nel nostro comune e poi sono state rafforzate moltissimo le corse di treno da Brescia che salgono fino al punto di imbarco dell'opera, che è appunto Sulzano. Avremo 84 corse al giorno, aumentate a dismisura le corse di battelli sul lago. Insomma, abbiamo cercato di far sì che ci sia la possibilità per il maggior numero di persone di visitare l'opera. È tutto evidente che, come dicevo prima, se i numeri saranno così alti come qualcuno paventa, la cosa ci creerà evidentemente qualche problema, ma tant'è che il prefetto giusto stamattina ha detto che si riserva il diritto di bloccare anche l'accesso all'opera ove vedesse che insomma la situazione diventa complicata, che c'è troppa gente. Va bene, vedremo come andrà nelle prossime settimane. Ovviamente faremo anche un po' di marcia di avvicinamento qua in effetto giorno all'apertura di questa opera straordinaria. Grazie intanto a Riccardo Menchiarutti, sindaco di Iseo. Prima di dare la linea a Mario Platero, una notizia appena battuta dalle agenzie: ha parlato il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici e dice: abbiamo fatto un rapporto sul debito per Belgio, Finlandia e Italia, per tutti e tre sono stati esaminati fattori rilevanti e deciso che non sono presenti le condizioni per aprire una procedura di infrazione. Quindi una buona notizia per l'Italia. Traffico, Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.